odore di pomodoro cotto nauseabondo, odore di casa famiglia, quando ero figlia non concepivo di mangiare in rosso alla mensa dei poveri, ricordo in bianco il mio pasto di me che dietro occhialini di ferro imbambolavo su una pasta scotta, resta un automa ossindone in questo tempo in cui il ricordo non conta, in questo tempo in cui è maturata questa norma d'inferno di sentirmi contenta.